Buona serata e ben ritrovati da Mirko Cavallini Studio e di Dai c'è la parte tecnica. Prosegue il nostro percorso di ascolto e riascolto di eventi, incontri, convegni che si sono svolti nel periodo recente o recentissimo nel territorio della diocesi di Padova. Abbiamo iniziato con ieri il percorso dedicato a Evangelii Gaudium, 4 incontri di approfondimento sull'esortazione apostolica di Papa Francesco. Lui stesso aveva invitato le comunità ecclesiali ad approfondire questo documento in occasione del suo intervento al Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze nel 2015. Ieri sera abbiamo riproposto l'intervento della professoressa Roberta Ronchiato, docente di Sacra Scrittura, sul tema Il Vangelo non si addomestica, l'anima biblica dell'Evangelii Gaudium. Stasera, seconda tappa di questo ciclo di incontri che si è svolto in 2 zone della diocesi, ad ottobre a Carceri d'Este per la zona sud, a novembre a Fellette di Romano Dezzelino per la zona nord. Sentiamo oggi la relazione di Manuel Rossi, dottorando in teologia pastorale, formatore dell'evangelizzazione, sulla domanda Una nuova visione di Chiesa, la dimensione profetica in Evangelii Gaudium. Bene, allora saluto il pubblico qua presente e anche chi è collegato in diretta. E devo dire che sono felice perché io sono a casa qua. Io sono nato a Bassano del Grappa, ecco, nel lontano 1971, nel vecchio ospedale della Madonnina qua a 2 passi. Dunque sono a casa, ecco, sono un novese di adozione, poi adesso vivo a San Martino di Lupari. Dunque comunque sono zone che ho bazzicato fin da quando ero bambino, ecco. E prima di iniziare voglio mettere una premessa, però. Ecco, una signora mi dice prima: non ci farai dormire stasera? E dico no, perché io non sono un docente, io sto studiando la teologia, sto facendo un dottorato, ma io da diversi anni svolgo un ministero a tempo pieno di evangelizzazione che mi porta a collaborare in diverse zone dell'Italia e anche altre parti, con parrocchie, con diocesi, dove formo gruppi e lì diciamo insieme motiviamo, ci esortiamo a evangelizzare, ecco. Dunque quello che farò io stasera non sarà darvi dei contenuti solo, ma sarà anche di insieme cercare di coniugare l'esperienza che io ho, okay, e cercare poi di trovare delle piste pratiche. Dunque userò un linguaggio semplice che non parte tanto dai contenuti, ma parte più dall'esperienza, va bene? Ecco, questa è la prima premessa. E poi mettiamo alcune premesse all'Evangelii Gaudium, prima di iniziare a entrare nel tema. La prima premessa è questa: fate chiasso, fate casino, smuovete la Chiesa, ecco. Questo è il Papa che lo dice. E il Papa dice: non voglio una Chiesa tranquilla, voglio una Chiesa inquieta, ecco. Noi dobbiamo essere i cristiani della inquietudine per il Vangelo, noi cristiani che hanno la sindrome della pantofola, ma i cristiani che sono chiamati a uscire per annunciare e diffondere il Vangelo, ecco. Allora, dunque, alcune premesse sono queste. Il destino di tanti documenti come l'Evangelii Gaudium rischia di rimanere dove? Rinchiuso nei cassetti, rinchiuso nelle biblioteche o addirittura nelle librerie, perché molte volte noi abbiamo questa concezione che i documenti sono molti, sono ridondanti e a volte facciamo fatica anche a leggerli. Diciamo che forse poche persone leggono veramente i documenti della Chiesa. Però il Papa qua ci vuole stimolare e dire che non deve essere così per l'Evangelii Gaudium. L'Evangelii Gaudium è un documento che ci chiama a un cambiamento. Più che a imparare delle tecniche, ci chiama a cambiare, a resettare la nostra vita di fede in previsione di una evangelizzazione che richiede un nuovo entusiasmo, un nuovo ardore. Dunque il Papa sta dicendo che non gli interessa che leggiamo il documento fine a se stesso, che impariamo delle tecniche o dei contenuti, ma che siamo disposti a cambiare, perché sa molto bene che i primi che fanno fatica a cambiare siamo noi stessi, perché vogliamo cambiare gli altri ma non vogliamo cambiare noi. Dunque i primi che si oppongono ad un cambiamento siamo noi stessi, perché non vogliamo cambiare. E il Papa sa molto bene, per cambiare le strutture, per cambiare la pastorale, bisogna cambiare prima cosa? Il nostro cuore, la nostra mentalità. Dunque quello che io vi chiederò stasera è questo: mettetevi nella condizione di lasciarvi un po' provocare dall'Evangelii Gaudium, da quello che io dirò, per attuare un cambiamento, non per essere snaturati, attenzione, ma per trovare delle risposte magari, o delle provocazioni che possiamo poi mettere in atto nella nostra vita privata e anche comunitaria, ecco, o di vari gruppi che appartenete. Poi, dunque, l'Evangelii Gaudium, più che una raccolta di precetti da osservare, cos'è? È una richiesta amichevole. Il Papa si rivolge alla Chiesa e dice: bisogna rinnovare la mentalità e gli stili, ok? Perché restituiscano, per restituire all'evangelizzazione tutta la imprevedibilità del Vangelo. Guardami qua negli occhi, il Vangelo è imprevedibile. A un certo punto, se tu leggi il Vangelo, c'è un papà che va da Gesù e gli dice: mio figlio digrigna i denti, si butta nel fuoco e poi si butta nell'acqua, cosa posso fare? Tu puoi fare qualcosa? Cosa risponde Gesù? Se io posso, ma tu credi? Tutto è possibile per chi crede. Bisogna che noi restituiamo al Vangelo quella possibilità, quella imprevedibilità, quella forza che abbiamo noi spento, perché l'abbiamo racchiuso dentro schemi freddi, dentro programmi precostituiti, preconfezionati, dentro i nostri pregiudizi, perché siamo fermi ancora in quel tempo Gesù e oggi non lo fa più. Papa dice: no, lasciati prendere per mano dal Vangelo e portalo a casa tua, portalo in chiesa da te, portalo nelle tue riunioni e lascia che sprigioni tutta la sua forza e imprevedibilità. Perché? Perché il Papa sa molto bene che cosa? Che siamo in un tempo di diceva Congar, oggi siamo di fronte ai Cristo pagani, ok? Vanno in chiesa ma non credono, vanno in chiesa ma non annunciano, vanno in chiesa, frequentano la messa e poi frequentano anche l'inferno, ok? La gente prega col diavolo accanto, ma è così, diciamocelo. La gente la domenica va in chiesa e poi lunedì legge l'oroscopo. Cioè, la fede non è più bypassata come anni fa dalla famiglia, dai genitori, dai nonni. Oggi manca questo canale di trasmissione tradizionale. Oggi siamo in un contesto pagano, c'è poco da fare. Il cristianesimo come diciamo così condivisione comune, come opinione diffusa, fa fatica, non c'è più. Papa dice: bisogna che recuperiamo questa dimensione. Il Vangelo, guardate, la gente torna nella chiesa se il Vangelo torna nelle case, dice il Papa, c'è poco da fare. Se il Vangelo torna nelle strade, la gente ritorna in chiesa, se no la gente non torna più, perché siamo in un contesto refrattario al Vangelo. Per questo l'Evangelii Gaudium non è una come si può dire, una raccolta di precetti, ma è una enciclopedia, un vademecum per l'evangelizzazione. Per il Papa, voi avete visto la icona del Giubileo della Misericordia, l'avete vista? Quella con Gesù che porta un uomo, ecco. Questa icona l'ha creata un gesuita, padre Rupnik, e lui dice, nella sua presentazione che ho ascoltato, lui dice che il nostro tempo che viviamo oggi è un tempo organico. Abbiamo vissuto dal Rinascimento fino al Novecento un tempo critico, dove prevaleva la ragione, la riflessione, dove tutto era mediato dalla aspetto critico. Oggi siamo nel tempo della vita, un tempo organico. Quando il tempo è organico, la cultura, la società, la religione è mediata dai simboli, okay? Dalle metafore. Il Papa ci presenta un'icona che è l'Evangelii Gaudium e usa delle metafore, un linguaggio semplice, casereccio. Il Papa sta dicendo che l'evangelizzazione è una realtà viva e organica e chiede che noi entriamo in questo gioco di interpretazione, come fosse un'icona da contemplare. Tu la guardi, tu la leggi, ma ti rimanda ad altro, ti dice altro. Ci siete? E in questo lui ci sta dicendo, dice a me e a te, se tu leggi l'Evangelii Gaudium scoprirai una cosa alla fine, che ogni cristiano deve essere un Evangelii Gaudium, cioè un annunciatore gioioso. Allora, cosa faremo adesso? Da quello che il Papa dice, io ho preso tre indicazioni concrete, perché la Evangelii Gaudium ti dà tante provocazioni. Prendo tre provocazioni che il Papa dà e ve le, diciamo, enuncio, e poi da queste cerchiamo di tirar fuori quale forma di chiesa, quale immagine di chiesa il Papa ci chiede di adottare nelle nostre comunità cristiane. Ho fatto una scelta perché è talmente ampia la proposta che ci fa, però ho cercato un po' anche di calarmi nelle vostre, diciamo così, menti, per non buttare troppa carne al fuoco e uscire confusi. Dunque, poche cose, ma chiare. Allora, la prima, diciamo così, il primo elemento che il Papa pone, io riprendo un po' anche il discorso di Roberta della settimana scorsa, per farvi capire che il tema è collegato. Il Papa sta dicendo che un cristiano, una delle prime caratteristiche del cristiano è la capacità di gioia. È una visione antropologica che è legata, che cosa? All'incontro con Cristo. Scusatemi, guardatemi qua, ma se la fede non produce gioia, che cos'è? Una disgrazia. Se la fede non produce gioia, cosa diventa? Un insieme di norme, di regole da osservare. Vai in chiesa, prega, confessati, non toccare qua, non toccare là. Se la fede perde la gioia, sapete cosa diventa? Una Coca-Cola sgasata. Non la vuole bere? Nessuno. Ma però tu direi un giovane che venga a pregare, se presentiamo una fede senza gioia. Allora il Papa dice, ci vuole uno sforzo, noi abbiamo la capacità di gioia. Tu va a leggere questa frase, dire questa frase ad Amburgo, a un tedesco ad Amburgo o in Svezia, che non ti abbracciano neanche quando si salutano. Ci siete? Si salutano così da lontano, per dire che è uno sforzo. Lui sa che la gioia non è tipica della cultura europea, lo sa benissimo, ma però lo sa e dice, ma la missione ti richiede la gioia, però devi tu cambiare e convertirti. Lo sa che noi non siamo gioiosi per natura, ma lui dice, però la missione chiede, che cosa? Un cambio, una conversione. Le stesse cose fatte con gioia, anche se sono sante, producono effetti diversi. Ci siete? Allora, quando il Papa deve dare il titolo all'Evangelii Gaudium, cosa fa? Guardate come nasce il titolo. Allora, quando lui viene intervistato prima di entrare in conclave, è ancora cardinale, gli dicono, senta Monsignor, senta Sua Eminenza Bergoglio, come deve essere il prossimo Papa? Lui dice, è così, pensando al prossimo Papa c'è bisogno di un uomo che aiuti la Chiesa a uscire da se stessa verso la periferia esistenziale dell'umanità, in modo da essere madre feconda della dolce e confortante gioia di evangelizzare. Questa affermazione sembra, secondo gli studiosi, che gli abbia aperto le porte all'elezione. Ma il Papa, quando deve dare il titolo all'Evangelii Gaudium, prende questa espressione che è dal 75 paragrafo di Evangelii Nuntiandi e da Gaudete in Domino, che è l'ultima esortazione che il Papa fa, ok, del 75, quando si conclude l'anno giubilario sulla misericordia, sulla, no, sul rinnovamento e la riconciliazione. Collegate il fatto che il Papa ha aperto l'anno della misericordia, collegate. E lui dice, no, e da lì ricava il titolo Evangelii Gaudium. Da Evangelii Nuntiandi, da Gaudete, Evangelii Gaudium. È una espressione chiara di tutto il suo, della sua impostazione, del suo pontificato. La scelta esposta nell'introduzione evidenzia che cosa? La gioia come contrassegno di chi ha accolto il Vangelo e lo comunica agli altri, e va a toccare un punto cruciale. Il Papa sa che la vita non è facile. Il Papa sa che i problemi sempre li avremo. Il Papa sa che le difficoltà, le malattie, le rogne, le beghe sempre ci saranno. Ma se accogliamo con fede e con gioia il Signore risorto nella nostra vita, la nostra vita può cambiare. Le difficoltà si possono superare, possono essere vissute in modo diverso. Questo è il punto. È un nodo cruciale. I problemi, Gesù dice ai suoi discepoli, i poveri li avete sempre con voi, me sempre non mi avrete però. Le difficoltà sempre ce l'hai a casa, le problematiche sempre ci sono. Ma cosa manca? La disponibilità ad accogliere il risorto, questo manca. E là ci vuole un soprassalto, un cambio, un entusiasmo nuovo che ti fa accogliere Gesù anche nella tribolazione, nella prova, per affrontarla in modo diverso. La mancanza di gioia era ciò che contestava Friedrich Nietzsche, il grande filosofo della morte di Dio, che diceva nel suo Umano troppo umano: le vostre facce sono state per la vostra fede più dannose delle vostre ragioni. Se il lieto messaggio della Bibbia vi stesse scritto in viso, non avreste bisogno di esigere così costantemente fede nell'autorità di questo libro. Cosa vuol dire? Che Nietzsche dice: basta che vi guardiamo voi cristiani per capire se la fede c'è o no. C'è poco da fare. Papa userà toni forti e mummie da museo, cristiani da quaresima senza Pasqua. Ma quando io esco dalla chiesa, che si deve vedere che là è cambiato qualcosa in me, e torno a casa gioioso, torno a casa con un volto diverso. È una grande provocazione questa, Dunque l'Evangelii Gaudium che cosa fa? È un inno alla gioia che deve accompagnare ogni cristiano, ogni comunità cristiana, perché sappiano reagire che cosa? Alle difficoltà, ok? Alle problematiche. È una gioia che si fonda dove? Sulla buona novella, cioè una gioia che si fonda su una speranza, una gioia che si fonda sulla vittoria di Gesù sulla morte. Quando si chiuderà l'anno santo, il Vangelo ci presenterà, la domenica di Cristo Re, ci presenterà i due ladroni. Signore, ricordati di me quando sarai nel paradiso. Oggi tu sarai con me nel paradiso. Pom. Si spalanca che cosa? Una prospettiva diversa. Dunque, la nostra gioia, dice il Papa, non si fonda sulle sicurezze che abbiamo, ma su una certezza che è che cosa? La presenza del risorto in mezzo a noi. È una cosa che noi abbiamo dimenticato, una cosa a cui noi non facciamo più riferimento. Tanto è vero che la prima cosa che ci sparisce, che va via quando abbiamo un problema, è la gioia. Oppure, Signore, questo non me lo dovevi fare. Signore, prego tanto. Signore, tante opere buone, guarda com'è mio figlio. Triste. È una provocazione. Dunque, guarda, dice questo il numero 10: possa il mondo del nostro tempo, che cerca ora nell'angoscia, ora nella speranza, ricevere che cosa? La buona novella, non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti o ansiosi, ma da ministri del Vangelo, la cui vita irradi fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo. E qua ci vuole fede, Gioire quando sai che le cose non vanno bene. Testimoniare la gioia del risorto quando hai che cosa? In casa tua la guerra. Quando hai difficoltà economiche, è lì che il Papa punta, dicendo quello che dice il Vangelo: cerca prima il regno di Dio, annuncia il regno di Dio con gioia e tutto il resto ti sarà dato in aggiunta. Dunque, per il Papa la gioia cristiana non è un entusiasmo, non è una certezza psicologica, ma è che cosa? È un pensiero teologico, okay? Forte, solido, okay? Perché deve contraddistinguere che cosa? Quella tappa nuova che i cristiani, che la Chiesa di oggi sono chiamati ad affrontare. Se leggi il Salmo, dice così: hai cambiato il mio lamento in danza, hai mutato il mio abito da sacco e mi hai rivestito di gioia perché io ti possa cantare senza fine, Signore. Per, il Papa parla di una gioia che è quasi uno sforzo che bisogna fare, una decisione. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore e dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare le vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. E questo porta il Papa a parlare della gioia missionaria. Facciamo una dinamica domenica: quando uscite da messa vi mettete là e chiedete a ogni cristiano che è uscito, gli dite: tu sei contento di essere cristiano? Poi guardate cosa vi rispondono. Non sappiamo neanche noi rispondere. Per questo il Papa va a toccare un tasto fondamentale. Mi piace leggere nel Vangelo di Luca quando l'Evangelista parla della nascita di Giovanni Battista. Dice che Zaccaria, sacerdote, è nel Tempio e stava officiando, capitolo 1, e dice che gli appare l'angelo che gli annuncia che sua moglie Elisabetta, sterile, avrà un figlio e lo chiamerai Giovanni e dirà: avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita. Allora io mi chiedo, ma forse che Zaccaria, sacerdote, officiava nel Tempio, uomo santo, pio e devoto, forse gli mancava che cosa? L'elemento più importante della sua vita di fede, che cosa? La gioia. Guardate che sono quei cristiani che sono caduti in una routine tremenda. Sempre le solite cose, sempre la solita messa, sempre il solito banco, e prova a portarglielo via. Sempre i soliti discorsi, sempre le solite obiezioni. Forse a Zaccaria mancava che cosa? Un soprassalto, una novità, una nascita, un rinascere di nuovo, un qualcosa, un evento, un'esperienza che cambia. E il Papa dice: lo so che siete già santi, poi se sei prete immagina, o suora, o immagina, o se sei dottore in teologia, mamma mia, sei già in paradiso, eh. Però forse tu sei caduto in un meccanismo, in una fede meccanica, ok? In un ingranaggio che non ti porta da nessuna parte. Ruoti attorno a te stesso, non diventi un missionario, diventi un dimissionario, che è diverso. Ci siete? Dice questo il Papa. Allora, forza, chiamerai Giovanni, che significa Dio ha avuto misericordia. Cioè Dio si è ricordato di te e viene oggi e ti porta che cosa? Una provocazione, lasciati incontrare da me per trovare la gioia di vivere, la gioia di sperare, la gioia di amare e la gioia di evangelizzare. Se il tuo stare con Gesù non ti porta ad andare verso i fratelli, stai sbagliando sequela, ricordati. Dunque, è decisivo prendere coscienza che cosa? Della decisiva importanza di questo incontro con Cristo per la nuova tappa dell'evangelizzazione. Senza di essa il fervore e l'entusiasmo perderebbero ogni vibrazione e intensità. Dunque il Papa dice che bisogna abbandonare lo stile di Quaresima senza Pasqua. Bisogna permettere che la gioia della fede cominci a destarsi con una segreta ma ferma fiducia anche in mezzo alle peggiori angustie. Di conseguenza, un cristiano, perché per l'Evangelii Gaudium, cristiano ed evangelizzatore sono la stessa persona. Noi scindiamo, noi diciamo: cristiano quello che va in chiesa, prega, osserva i comandamenti. L'evangelizzatore è il prete che va in missione in Africa, in Asia, in Brasile, eccetera. Ecco, no. Per l'Evangelii Gaudium, dire cristiano significa dire uno che è missionario, cioè un testimone, un evangelizzatore dove? Nella tua Africa, nella tua Amazzonia, in casa tua c'è la giungla, ascolta me, nel tuo quartiere c'è, non c'è l'Africa, peggio ancora, ok? Io ho due fratelli, uno vive in Texas e l'altro gira il mondo per commerciare, e quello più vecchio ha quattro figli, ha la sua vita di fede bene o male, quello più giovane è un po' uccel di bosco, non si è sposato né niente, e lui mi dice, sa quello che faccio, no? E ci incontriamo due o tre volte all'anno, a Pasqua, a Natale, da qualche parte, e mi dice, sì sì, tu parli del Vangelo, ma vieni con me nei sobborghi di Manila e poi mi dici dove è il Vangelo, vieni a vedere a Bangkok la violenza che c'è, dimmi dove Dio l'ha, ti porto io, ci siete? Dunque bisogna essere missionari, nel convento dove le suore litigano per fare la lavatrice, capite? Certo, è chiaro. Dunque un evangelizzatore via la faccia da funerale. Da qualche parte ho letto quel naso da peperoncino sotto aceto, via, basta. Ma non è possibile. Guardate che la gioia è un frutto dello spirito, sapete? Paolo dice ai Galati, il frutto dello spirito è amore, pace e gioia. Dunque la gioia come antidoto al fanatismo ecclesiale, più che come esperti in diagnosi apocalittiche o giudici oscuri che si compiacciono ad individuare ogni pericolo o deviazione, è bene che possano vederci come gioiosi messaggeri di proposte alte, custodi del bene e della bellezza che risplendono in una vita fedele al Vangelo. Perché poi il cristiano che non è gioioso diventa che cosa? Uno che brontola, uno che mormora, uno che fa previsioni apocalittiche disastrose. E siccome indovini sempre, perché quando parli di peccato o di morte indovini sempre prima o poi perché arriva, allora mamma mia, sapete che dicono che il pessimista è un ottimista ben informato, ok? Ecco, allora lui, ma ti sei informato? Guarda la realtà, guarda, ma sì sì, preghiamo Dio, ma e perché i bambini muoiono in Africa? E perché il terremoto? Ci siete? Cioè poi si diventa non cristiani che danno speranza, ma si diventa esperti in diagnosi apocalittiche, si vede che noi diciamo, Signore donaci la luce, bene certo, ma tu prima di tutto sii una lampada che arde. È una conversione, è un cambio, ci siete? Scusate se provoco un po', ma non sono qua a fare il catechismo io, Secondo punto, il ruolo fondamentale del kerygma. Ecco, il primo punto è la capacità di gioia, state attenti che poi da qua prenderemo le tre immagini. L'altro punto è il ruolo fondamentale del kerygma. Cos'è il kerygma? Il kerygma è una parola greca che significa gridare, poi vedremo. Il kerygma è, da un punto di vista, ecco dai, teologico, lasciatemi fare anche il teologo, va bene? Significa il cuore del messaggio evangelico, Gesù morto e Gesù risorto. E il Papa dice, soprattutto nel capitolo 3 dell'Evangelii Gaudium, che noi dobbiamo rimettere al centro, ok? Tutto, ok? Il nucleo centrale dell'annuncio apostolico. La prima chiesa professava Gesù Cristo morto e risorto. Paolo dice, io non vengo a voi con discorsi sapienti, vengo con che cosa? La croce di Cristo. Io non conosco altro se non Cristo morto, crocifisso e risorto, ok? Perché? Perché la mia predicazione non sia fondata sulla sapienza, ma sulla potenza di Dio. Poi lui scrive allora ai Romani e dice, io non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Sta dicendo che se noi come comunità, state attenti qua, guardatemi adesso, se noi come comunità non prendiamo il Vangelo e non lo mettiamo al centro, ok? Attenti? Se noi prendiamo il Vangelo a casa tua, cominci a leggere il Vangelo con la tua famiglia, nei nostri gruppi, invece di discutere quante salsicce comprare a Lugano alla sagra, ok? O quante biglietti di lotteria fare, incominciamo a mettere prima di tutto il Vangelo. Lì Paolo dice, Dio si impegna così tanto come quando ha risorto Gesù dai morti. c'è una potenza, c'è una teofania, Dio si rivela. Quando annunci il Vangelo, lì Dio si fa presente, è parola di Dio. Allora, già che recuperiamo, dice il Papa, questa dimensione, i testimoni di Geova, sapete perché prendono tante persone? Perché sanno quattro cose, ma le sanno bene e sbagliate. Noi invece sappiamo tante cose, le sappiamo bene, no, male, e sono neanche quelle giuste, e ci portano via la gente, è vero. Papa dice, bisogna reimpostare tutto alla luce dell'annuncio evangelico, cioè della morte e resurrezione di Gesù, partire da là. Il tema del primo annuncio, allora, non è una questione metodologica, non sono tecniche, ma è un qualcosa, okay, che noi abbiamo dimenticato nella nostra pastorale. Insegniamo tante cose, i valori, la morale, i dogmi, che sono buoni, ma vengono dopo. Papa dice chiaramente, se tu vedi uno che sta morendo e gli fai le analisi del sangue e gli dice guarda che hai il colesterolo alto, lo ammazzi ancora di più, ma tu prendilo prima, ok, e il samaritano, curalo, dagli il necessario, dagli che cosa? Quello che ha bisogno per sopravvivere, e poi lo curi fino in fondo. Noi prendiamo le persone che oggi non sanno neanche la differenza tra noè e Mosè, ok? E gli diamo subito che cosa? I dogmi, la morale, la liturgia, ma farli incontrare Cristo attraverso la sua parola. Nutrili con la parola di Dio. Questa cosa qua l'abbiamo omessa. E partiamo subito con i grandi discorsi e la gente non ci segue. Il Papa dice, bisogna reimpostare la nostra pastorale, il catechismo, i nostri incontri, a partire da che cosa? Dal pane, ok? Dall'elemento primitivo, primordiale, che è la parola di Dio, l'annuncio di Gesù in mezzo a noi vivo e risorto. Vi racconto un fatto. Ad un incontro che ho fatto qualche anno fa, si è avvicinato un signore alla fine e mi dice, di circa 50 anni, mi dice, io ho dei problemi molto forti a casa, con mia moglie e con mia figlia, e sto perdendo il lavoro. E mi dice, per me oggi vivere o morire è la stessa cosa. Andare a casa e buttarmi giù dal terrazzo del terzo piano e farla finita, per me è la stessa cosa. Non vedo futuro. Fermo qua. Fermati qua, vieni con me. Cosa c'è scritto qua in Romani 10? Se tu confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai col tuo cuore che Gesù, che Dio l'ha risorto dai morti, sarai salvo. Guarda, vieni qua, questa parola è per te, è vera, leggila, pregala. L'ho affidata a una famiglia che fa un percorso di fede, che a casa propria poi hanno un gruppo di preghiera. Dopo 2 anni lo ritrovo in modo misterioso, un altro incontro, si avvicina e mi dice, ti ricordi quella volta che tu mi hai dato questa cosa da fare? Sì, beh guarda, da quella volta ho cominciato un percorso che mi ha portato a riconciliarmi con mia moglie, con mia figlia, e a ritrovare serenità nel lavoro. Ho incontrato Gesù vivo, leggo la parola di Dio, mi sono avvicinato alla Chiesa, ai sacramenti, la mia vita è cambiata. Che cosa è stato fatto? Vieni qua, accogli che cosa? Un messaggio che ti salva, non una cosa da fare, non una norma da osservare, non un precetto in più. Accogli che cosa? Una parola che ti dà speranza. Oggi il Papa dice, bisogna che cominciamo a dare speranza alla gente. Io giro, guardate, non sono un prete, sono sposato, non confesso, ma ascolto molte persone. E la gente non vuole sapere, sai, tante cose. Non vuole sapere chi è Dio o no. La gente vuole sapere se tu gli vuoi bene, se la Chiesa è interessata a loro, se più che dare divieti o penitenze da fare, vuole sapere se c'è una parola di speranza che li rimette in piedi. Questo è il punto. Dunque, più che dare norme o divieti o incarichi insopportabili, bisogna che noi diamo alle persone, dice il Papa, una parola che li rimette in piedi. Gesù diceva, va, la tua fede ti ha salvato. Lazzaro, esci dal sepolcro, torna a casa tua e racconta quello che Dio ti ha fatto. Basta. Poi da lì comincia un percorso che porterà la persona a inserirsi anche, a imparare cos'è la morale, il dogma, eccetera, eccetera. Questo manca. Una cosa che noi abbiamo dimenticato e abbiamo omesso nella nostra pastorale. Il primo annuncio, guardate, è il luogo dove il cherigma, il messaggio della salvezza, del mistero pasquale di Gesù Cristo, è proclamato con grande potenza spirituale, tale da provocare il pentimento del peccato, la conversione del cuore e la decisione della fede. Questo è bellissimo. Tu quando annunci il Kerygma, annunci Gesù risorto, la persona davanti a un fatto. O accogli o non accogli. O cambi o rimani così. Ma la persona cambia perché non ha alternative. Dunque, il Papa dice, una pastorale, quello che facciamo noi, un catechista non deve essere ossessionato a trasmettere tante cose, ma il punto di partenza è questo: Gesù Cristo ti ha salvato. Boh. Previo ogni cosa, obbligazione morale e religiosa, ma l'amore salvifico di Dio. Collegate questo con l'anno della misericordia, che il Papa ha aperto a qualsiasi persona. Ha dato il mandato ai preti di anche di, dove c'è il pentimento, di rimettere anche il peccato di aborto. Mamma mia! Apertura che anche adesso verso, non voglio aprire fronti, ma le coppie divorziate e risposate, non è un tema che tratto adesso. Però il Papa dice, bisogna partire da che cosa? Dalla misericordia. Il primo atto di misericordia è Gesù ti ha salvato. Gesù Cristo ti ha liberato dal peccato, dalla morte. Apri il tuo cuore, questo è il punto. Il Kerygma è questo. Insegna questo a un bambino, insegna questo a un giovane, insegna questo a una persona che è nella difficoltà. Tu gli spalanchi la possibilità che possa entrare, che cosa? La misericordia di Dio, operare miracoli, guarigioni, liberazioni. Papa dice questo. Dunque, il Kerygma è il fulcro di ogni prassi ecclesiale. E anche la formazione dovrebbe essere impostata, che cosa? A partire dalla esperienza, dall'annuncio del risorto in mezzo a noi, da questo nucleo centrale, che non, adesso non sto qua tanto a indagare. Però voglio farvi questa piccola distinzione, perché capiate, che l'Evangelii Gaudium non separa la catechesi, che viene dopo, dal Kerygma, che viene prima, li mette insieme. Sono come due binari che viaggiano paralleli. Però questa è la differenza. È sostanziale, ok, però ci vuole, ma sta insieme. Allora, il Kerygma è il grido, una proclamazione. La catechesi cos'è? Un qualcosa che tu insegni. Le catechiste che sono qua, o qualcuno che è in mezzo alla pastorale, può capire molto bene. Tu, quando annunci il Kerygma, tu hai un grido, voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore. Ecco, il catechismo, la catechesi insegna maestra, è un passaggio che viene dopo. Prima apri gli orecchi, prima scuoti le coscienze, poi gli dai la proposta. Poi c'è l'obiettivo del Kerygma, è bisogna portare le persone a nascere di nuovo. Nicodemo, tu devi rinascere dall'alto. Bisogna che le persone oggi, bisogna rifare i cristiani, non bisogna rifare le chiese, non bisogna fare le strutture, ma i cristiani vanno rifatti oggi, che nascono a vita nuova. L'obiettivo invece della catechesi poi li fa crescere, ok? Ci siete? Ma se non nasci, come fai a crescere? Se non apri le orecchie, come fai ad ascoltare? Poi, qual è il contenuto del Kerygma? Ti presento un Gesù morto, risorto, ok? Glorificato, Signore, Salvatore e Messia, cioè ripieno della potenza dello Spirito Santo. Che opera sapete oggi? Si manifesta, tocca i cuori, converte. Non basta che vai a Međugorje, sai, puoi stare anche a casa tua, nella tua parrocchia. Non lo fa solo là il miracolo o da altre parti, lo fa anche a casa tua, se il tuo cuore è disponibile. Invece il contenuto della catechesi qual è? La dottrina, la morale e il dogma, che vengono dopo, perché vanno a toccare l'intelligenza. Il Kerygma tocca il cuore, apre il cuore e l'intelligenza. Leggete Emmaus, capitolo Luca 24. Aprì la mente e il loro cuore all'intelligenza delle scritture, ok? Poi il metodo cos'è? Si proclama Gesù, e porta che cosa? A decidersi. Insomma, se qua invece della mia persona ci fosse, non so, il Papa, che ti dicesse, ti regalo questa bottiglia di acqua, tu la prenderesti? Sì o no? Certo. E la terresti? Fra 2 anni ce l'avresti ancora, vero? Certo, perché te la regala il Papa. Se te la regalo io, tu magari la prendi perché va bene, sai, per rispetto, ma fra 2 anni, ma chissà dove finirà. Cioè, quando tu porti la persona ad accogliere Gesù, i suoi doni, la persona ha questa coscienza, fratelli, perché è figlio di Dio, decide per Gesù, credimi, difficilmente poi lascerà. difficilmente lo abbandona. Il metodo invece della catechesi insegna che cosa? La dottrina in modo progressivo. Qual è l'agente del cherigma? Deve essere un testimone. Papa riprende qua Evangelii Nuziandi e dice, Paolo VI dice, oggi la Chiesa ha bisogno di testimoni, non di maestri. Non cadiamo nella sindrome del maestrino, vogliamo fare i maestri, insegnare a tutti, lasciate stare. Il Papa dice, bisogna diventare testimoni, perché il testimone fonda quello che dice su ciò che vive, non su ciò che sa, ma su quello che vive. L'altro maestro, qual è il tempo del kerygma? Oggi. Oggi sarai con me in paradiso. Qualche domenica fa, Zaccheo, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Oggi Dio ti ama. Oggi è per te il messaggio. Il messaggio è attuale. Oggi può cambiare, non domani. Invece il kerygma e invece la catechesi è un percorso che ti porta poi da oggi a scoprirlo più avanti, ok? E a strutturarlo. Terzo passaggio, mi seguite? Terzo passaggio, allora, con responsabilità missionaria di tutto il popolo di Dio. Allora, primo punto è la gioia. Secondo è mettere al centro che cosa? L'annuncio del risorto. E terzo punto è che tutto il popolo di Dio è missionario. Sono tre elementi fondamentali che l'Evangelii Gaudium dice, mette insieme, dice tu, noi siamo missionari. Questo deve essere qualcosa che ci porta ad andare oltre che cosa? Le divisioni, gli scandali, le paure, un clericalismo esagerato, ok? O un laicismo estremizzato. Il Vaticano II dice siamo popolo di Dio, all'interno del quale ci sono carismi, ministeri diversi, ok? Uno è, dice Paolo agli Efesini, uno è apostolo, altro evangelista, altro educatore, altro profeta, ecco, qua noi uno è prete, l'altro è madre, l'altro è operaio, l'altro è ingegnere, l'altro è banchiere, l'altro fa la suora, l'altra fa la nonna. Tutto il popolo di Dio è che cosa? Però è un popolo profetico, cioè, ok, che annuncia lì dove è chiamato. Tutto il popolo di Dio è missionario dove? Nella propria chiamata vocazione. Tanto il sacerdote, tanto il teologo, tanto il muratore, tanto la mamma, la nonna, tanto l'educatore. Differenti ministeri, ma un'unica chiamata. Ci siete? Papa dice, togliti dalla mente che la evangelizzazione è opera per specialisti che portano il colletto o il velo o il saio. Tutti siamo missionari, ok? Tutti siamo evangelizzatori. Togliti via da questa cosa, tu lo puoi essere, non importa il titolo di studio, ma la tua disponibilità. Il discepolo non è colui che ha chissà cosa, è colui che è disponibile a lasciarsi toccare perché diventi canale di amore per gli altri. Questo è importante da capire. Dunque, riguarda tutto il popolo e soprattutto oggi il laicato. Un laicato deve essere maturo, responsabile. Non un laicato che si mette contro il clero. Non un laicato che vuole fare il clero e poi fare il prete perché non fai i preti sposai? Ma lasciate perdere. Ma perché tu non vai a evangelizzare? Chiediti questa cosa. Ma no, lascia stare queste cose che non ti competono, perché noi ci perdiamo in tante patturnie mentali. Perché non facciamo, perché non vai a evangelizzare? Perché no, tu non fai il tuo compito? Dai, chiediti questo. O no? Perché vuole rendere il cristianesimo un dibattito da salotto, da Maurizio Costanzo. Perché? Perché non vuoi uscire, non vuoi evangelizzare, allora bisogna fare che cosa? Trova fuori storie, rogne, la chiesa, i preti qua. Ma sì, ok? Prenditi la tua responsabilità, dice il Papa. Queste cose qua, c'è un magistero che non farle tu, perché hai letto il libro delle giovani marmotte, ok? Non fallo tu. Oppure informati bene. Cosa devi fare? Esci, evangelizza, vai per le strade ad annunciare, questo è il tuo compito, poi il resto ci pensiamo noi. Scusate perché molte volte mi perdo in discussioni con persone che girano attorno, no, sempre per l'aia col cane senza mai legarlo con la catena, perché non vogliono essere testimoni. Ma vai a testimoniare, Papa dice questo. Dunque, senza questa presa di coscienza non saranno possibili che cosa? Nuovi metodi, nuove forme, nuove figure creative. C'è poco da fare. Se noi non prendiamo coscienza che tutto il popolo è missionario, non creeremo figure nuove, forme nuove, strategie nuove, metodologie nuove. Siamo come quel padrone di casa, ok, che si preoccupa di che cosa? Di spolverare le maniglie della porta, ma la sua casa va in rovina, sta andando a fuoco. Ci preoccupiamo delle cose che sono futili, quando invece c'è una carisma, c'è un dono. Tu hai un dono, ogni persona, Papa dice, ogni persona ha un dono, ogni persona ha un carisma. Devi scoprire qual è il tuo insieme con i tuoi pastori. Per questo, per il Papa, corresponsabilità cosa significa? Vivere insieme un sogno di chiesa in stato di missione permanente e mettere insieme che cosa? Energie e mezzi perché quel sogno si realizzi. Che bello che sarebbe trovarsi alle nostre riunioni, no? Che molte volte sono sempre ci sono tensioni, è chiaro, è normale, ma vanno bene perché andiamo in profondità. Ma dire, perché non mettiamo insieme che cosa? Idee, progetti, prospettive per diventare missionari. Una chiesa che non evangelizza è una chiesa che mormora, una chiesa che ha paura, una chiesa che gira attorno a se stessa per curare proprio le proprie faccende domestiche. Papa dice, dai, mettiamo insieme che cosa? Un sogno, mettiamo insieme idee, quale? Annunciare, uscire. E dice, io preferisco una chiesa malata, sporca, ferita, però in mezzo alla strada, che sta con le pecore, piuttosto che una chiesa sana, bella, immacolata, ma cosa? In sacrestia. Serve a niente? Non serve a niente. Allora, dice, cristiani, mettiamo insieme idee, risorse, per coltivare un sogno in tutte le regioni, dice lui, Evangelii Gaudium, costituiamoci in uno stato di missione permanente. Questa è una conversione, sapete, radicale. Dunque, non sta dicendo imparate una preghiera nuova, fate una messa in più, ma sì, facciamola. Dice, acquisite che cosa? Un cambio, attuate una conversione missionaria. Questo fa la differenza. Se cominciamo a fare così, hai voglia come cambiano le cose, le strutture, come si attirano le persone. E in questo i testimoni di Geova ci fregano, hanno imparato, sono furbi. Dunque Paolo dice, no, Sesto dice, Evangelii Nuntiandi 50 anni fa dice, 40 anni fa dice, afferma il primato dell'evangelizzazione. Francesco dice, bene, allora la chiesa è un ospedale da campo, tutti fuori. Evangelii Nuntiandi nel 75 dice, cos'è l'aggiornamento di Vaticano II? È la chiesa che evangelizza il mondo contemporaneo. Francesco dopo 50 anni quasi rilegge e dice, cosa facciamo? Usciamo, basta, c'è poco da perdere qua, tempo, si va fuori, si diventa un ospedale da campo, ok? Ogni battezzato. Dunque tutta la novità, qual è la novità? Che ci costituiamo come che cosa? Come popolo di Dio che annuncia il Vangelo. Che bello sarebbe mettere nei nostri bollettini parrocchiali non solamente quanti mattoni abbiamo messo questa settimana per costruire il campanile, quanti compleanni fatti oggi, quanti morti, quanti matrimoni, ma scrivere anche quante persone si sono convertite questa settimana qua grazie al nostro annuncio. Scusate, però sarebbe da mettere, no? Perché mettiamo nei nostri bollettini, cioè tutte le statistiche, ma perché non mettere anche quante persone grazie al nostro annuncio sono state convertite da Gesù o sono arrivate in chiesa questa settimana qua? Potrebbe essere una gara, no? Alla fine dell'anno diamo il premio. No, scherzo. Per dire quanto ci perdiamo noi, il Papa è molto semplice. Come noi, quando io facevo il militare, c'era un maresciallo, parlo oltre 20 anni fa, che fuori dal suo ufficio aveva scritto questo, UCAS, ufficio complicazioni affari semplici. E questo era il suo incarico. Allora, e noi complichiamo le cose, e il Papa, il Magistero ce le rende semplici. Mamma mia, qual è la cosa più naturale per un cristiano? Annunciare. E noi facciamo statistiche, indagini. Va bene, dai. Dunque, si chiede che cosa? L'apertura a nuovi protagonisti, a nuove strade, a metodi creativi per non imprigionare Gesù dentro schemi noiosi. Oh, mamma mia, non cambia mai niente qua. Oh, a 6 anni che fermo così, non cambia mai niente. Cambia tu, comincia a cambiare tu, dice il Papa. Mamma mia, andiamo a provare tutte che mo provare. Cosa potremmo fare? Ormai, ho saputo, proviamo anche questa. Ma no, Papa, qua stiamo imprigionando Gesù dentro i nostri stereotipi. Provoca un atteggiamento libero, ok? L'Evangelio Gaudium, senza calcoli. E anche a costo di patire il fallimento. Il Papa sa che evangelizzare è dura. Prima, quando sono arrivato, un amico mi dice: devo dirti una roba, fa. Evangelizzare è dura. Lo dice a me che faccio 6.000 km al mese? Lo dice a me? Evangelizzare è dura. Ho invitato 5-6 persone, ho invitato 5-6 persone qua stasera, neanche una è venuta. Uno ha la febbre, l'altro non può, l'altro la suocera. Ma è così. Gesù è stato onesto: avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, abbiate fede, io ho vinto il mondo. Questa qua la leggiamo insieme, però, guardate, guarda qua, tutti insieme. Alcune persone, dai, tutti insieme, alcune persone non si dedicano alla missione perché credono che nulla può cambiare e dunque per loro è inutile sforzarsi. Pensano così: perché mi dovrei privare delle mie comodità e piaceri se non vedo nessun risultato importante? Con questa mentalità diventa impossibile essere missionari. Questo atteggiamento è precisamente una scusa maligna per rimanere chiusi nelle comodità, nella pigrizia, nella tristezza insoddisfatta, nel vuoto egoismo. Se pensiamo che le cose non cambieranno, ricordiamo che Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo vive veramente. Cristo risorto e glorioso è la sorgente profonda della nostra speranza e non ci mancherà il suo aiuto per compiere la missione che egli ci affida. Questo qua bisogna impararlo a memoria come il Padre nostro. Appenderlo nel nostro, non so, bagno, nella nostra camera. Alcune persone non si dedicano alla missione perché dicono: ma non cambia niente. E dicono: ma è inutile sforzarsi, ma perché dovrei privarmi dei miei piaceri? Sei un dimissionario, dice il Papa, ok? Dunque, alla Chiesa non servono burocrati calcolatori, ma missionari coraggiosi e appassionati, pieni di ardore e capaci di farsi prossimo alle persone per non abituarsi a camminare entro i confini sicuri, ma percorrere vie nuove e inesplorate per offrire speranza. Una chiesa funzionale non rischia mai e perde il coraggio apostolico. Francesco, Papa Francesco, Angelus, 14 agosto del 2016. Bellissima questa, bellissima. Noi, signore, calcolatori, signore, attenti perché forse mi conviene o no. Papa dice: mamma mia, attento che forse perdi il coraggio, l'entusiasmo. Allora, quale visione di chiesa immagine noi ricaviamo dalla gioia, dall'annuncio del Cristo risorto e dalla responsabilità, corresponsabilità missionaria, cioè tutto il popolo si rende disponibile per essere missionario. Primo punto, una chiesa coraggiosa e non ansiosa. Ecco, primo punto è: se tu accogli la proposta della gioia del Cristo risorto, trovi coraggio e infondi coraggio. La gente diventi che cosa? Una chiesa profetica perché? Perché rimandi, cioè sei segno che cosa? Di una forza, di una speranza, di una fiducia ritrovata. Dunque diventi una chiesa coraggiosa, una comunità coraggiosa, non ansiosa. I cristiani oggi sono ansiosi, con l'acqua alla gola. Via queste paure. Papa dice che la chiesa che si lascia toccare del Cristo risorto e dalla gioia diventa una chiesa che comincia a uscire da se stessa, una chiesa estroversa, non introversa. Basta cristiani introversi, ripiegati su se stessi. Io la mia fede, sai, ce l'ho, io il mio Dio, ma lascia perdere, non vai in paradiso da solo. Tu, Dio e i fratelli, ai quali tu devi annunciare che cosa? Un dono che hai ricevuto. Questo ti porta a essere coraggioso, non ansioso. Atti degli Apostoli. Gesù appare, prima della Pentecoste, e i discepoli dicono: Signore, è questo il tempo in cui tu ricostruirai Gerusalemme? Ricostituirai il regno tuo? Non spetta a te conoscere i tempi, a voi. Questo andate e annunciate in tutti i villaggi, mi sarete testimoni e su di voi scenderà che cosa? Lo Spirito Santo. Guardate, tiriamoci via i nostri calcoli, e questo è il tempo in cui le cose cambieranno. Voteremo sì o no al referendum, Trump o Clinton, ma lascia stare, tu ricevi lo Spirito Santo e vai ad annunciare. Ma Signore, quando cambi il parroco? Perché siamo stufi, quando Signore cambiamo il vescovo? Quando cambiamo, quando mettiamo a posto le cose qua, quando cambi il consiglio pastorale? Non aspetta a te, a te aspetta che cosa? Il compito di annunciare con la potenza dello Spirito Santo. Bellissima, perché quando pensi a queste cose qua diventi ansioso, e quando uno diventa ansioso diventa logorroico, e quando uno diventa logorroico la gente sta distante, perché invece di annunciare il Vangelo sputa veleno come il serpente nel giardino dell'Eden. Dunque, una chiesa che non cerca alleanze politiche, una chiesa che si oppone al carisma ecclesiale, una chiesa che non cede ai compromessi vocazionali, una chiesa che dice, come San Paolo, siamo i collaboratori della vostra gioia. Bellissimo. Alzarsi al mattino, mettersi davanti al Signore e dire, oggi Signore voglio collaborare per la gioia dei miei fratelli. Io appartengo a una comunità che forse voi conoscete, perché è stata bistrattata, si chiama Koinonia Giovanni Battista. E ne abbiamo lo spirito del Battista, che dice, io devo diminuire perché lui deve crescere. La mia gioia sta in questo. Che l'altro cresca, io diminuisca. Come possiamo noi ogni mattina, dice il Papa, alzarci e dire che la gioia che io ho possa essere trasmessa, possa collaborare per far crescere la gioia del risorto negli altri. Cambia la prospettiva, guardate qua, una chiesa che diventa una chiesa nuova, un segno nuovo. Una chiesa, secondo punto, allora, che comincia a annunciare che cosa? La resurrezione. Contro che cosa? La psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Contro la tentazione di attaccarsi ad una tristezza dolciastra senza speranze, che si impadronisce del cuore come il più prezioso degli elisir del demonio. Una chiesa che assume lo stile della testimonianza. Dunque, una chiesa che annuncia risorto, una chiesa che diventa testimone. Atti degli Apostoli. Datemi ancora 5 minuti, va bene? Poi finisco. Atti degli Apostoli. A un certo punto Giuda esce, ancora prima della passione, si impicca. Rimangono in 11. Scrive l'Evangelista Luca negli Atti degli Apostoli che bisogna sostituire ricostituire i 12. Pietro e gli altri cominciano a tirare le sorti e la sorte cade su Mattia. Però dicono prima, quale condizione deve avere chi prende il posto di Giuda al 12esimo? Che sia testimone della resurrezione. Allora, una chiesa che metta questa condizione sine qua non, se no non si è chiesa, che annunci la resurrezione. Pietro dice, Gerusalemme profuma ancora della morte di Cristo. Gerusalemme è scandalizzata dalla morte di Cristo. Ci vuole uno che ci aiuti a convertire Gerusalemme che odora di morte in Gerusalemme che profuma di resurrezione. La chiesa di oggi, fratello, la tua comunità ha bisogno di persone che sappiano trasformare la tua città che profuma di morte, il tuo quartiere che sa di morte, perché c'è morte se guardi bene, in un quartiere che comincia ad annusare il profumo di Cristo, perché tu annunci la resurrezione. Questa è la condizione per diventare discepoli della chiesa dei 12, del popolo di Dio. Dunque, più che chissà cosa, ci chiedono di portare il profumo di Cristo dove andiamo, nei nostri ambienti dove c'è morte, dove c'è distruzione, dove c'è miseria. Porta il profumo di Cristo. Una chiesa che fa questo è una chiesa profetica, perché fa quello che non fanno gli altri. E terzo, una chiesa missionaria, amica dell'uomo, che va incontro, ecco, a chi? A tutti coloro i quali Gesù che cosa offre la sua amicizia. È una comunità che prende un'iniziativa, primirear, ok? Fate così adesso, scusatemi, fate così tutti quanti, dai, come allo stadio. Ascoltate qua, perché sto finendo, ma è importante. Arriva la ciliegina sulla torta. Primirear è un neologismo che il Papa conia. Cos'è il neologismo? Una parola nuova che lui prende da Buenos Aires. Nel porto di Buenos Aires, primirear significa arrivare prima di te per soffiarti il posto di lavoro, arrivare prima di te per comprare i biglietti delle studentes contro il Boca Juniors, arrivare prima di te, ok, per spacciare la droga nel porto, ok? Cioè vuol dire arrivare prima con un colpo di mano e soffiarti, che cosa? Un'opportunità. Questo vuol dire primirear. Se tu poi vai a Rio de la Plata, ok, nei sobborghi ancora più di Buenos Aires, più profondi, lì primirear vuol dire proprio è una connotazione negativa, vuol dire che le bande fanno la lotta, si scontrano, cioè per arrivare prima a proprio a fare vari colpi, omicidi, colpi veramente da banditi. Il Papa dice: bisogna che noi cristiani, con un vero colpo di mano, arriviamo prima del diavolo, dei testimoni di Geova, della disperazione, dell'angoscia, dei giornali che inquinano la mente delle persone, okay? Degli spettegulez che mettono in crisi la comunità ecclesiale. Bisogna che noi cristiani, con un colpo di furberia, dice il Vangelo, i figli della tenebra sono più scaltri dei figli della luce. Siate semplici come le colombe, ma furbi come i serpenti. Bisogna che noi cominciamo anche noi a assumere quello stile militante della fede. Tu dici, devo arrivare prima, so che lì c'è un problema, arrivo col Vangelo prima che arrivano gli altri. C'è una difficoltà, vado incontro perché so che il Vangelo ha una soluzione. Papa dice questo, non dice dai, preghiamo che sia fatta la volontà di Dio. Ma no, anche questo sì, ma comincia ad agire. Tu vedi che c'è un'opportunità, fiondati dentro, cioè crea, stimola la tua creatività cristiana. Questo, dati da fare, ok? Arriva per primo, c'è una gara, c'è una gara, arriva per primo. Il buon samaritano che il Papa prende sempre come esempio non ha solamente salvato il poveretto che è stato battuto dai briganti perché ha avuto compassione, perché ha visto un'opportunità, non ha visto il mezzo morto, ha visto il mezzo vivo, ricordati. Dunque se tu vedi il mezzo vivo, lavori per la resurrezione, ma se guardi il mezzo morto, lavori per il funerale, ricordati. Papa dice, lavori per la resurrezione o per il funerale? Se guardi il mezzo vivo, ti dai da fare e corri, spendi e metti del tuo. Se guardi il mezzo morto, vai che cosa? Come Sadduceo e sacerdote e vai a preparare il funerale o alla dove? Al comune, nella ufficio anagrafe, morto. Dipende. Se tu vedi che c'è opportunità, fiondati, perché il Vangelo salva. Le comunità diventano missionari così, sapete? Non perché prendi un grado in più. In essa tutto viene pensato in chiave di missione. Si tratta di non aspettare la gente che venga, ma di andarla a cercare laddove vive per ascoltare, benedire e camminare insieme, cogliendone l'odore, fino a restare impregnati delle sue gioie, delle sue sofferenze, delle sue tristezze e delle sue angosce. Messaggio alla Fucci. Si tratta di andare là a cercare qualcuno. Nel tuo condominio c'è qualcuno che sta male, vai a cercarlo. Ma io sto in pace. Non puoi stare in pace nel tuo condominio, nel tuo appartamento, se nel condominio c'è la guerra. La bomba ti entra prima o poi dalla finestra, ricordati. Non possiamo stare seduti davanti al tabernacolo lì adorare Dio e basta. Bisogna che poi usciamo con questa esperienza e verso i cristiani che sono soli, verso le persone che sono disperate. Una chiesa che va incontro alle persone rende visibile che cosa? Una proposta concreta di nuova evangelizzazione. Si parla sempre di nuova evangelizzazione. Io sto facendo anche la tesi di dottorato dentro questo marasma. Vi dico, tutti parlano, ma cos'è poi? Perché viene messa in contrasto la mentalità religiosa del sacro, e qua voglio arrivare. Per essere chiesa profetica, tirati via la mentalità del sacro. Lo spirito di religiosità che non salva nessuno, che ti porta a un devozionismo magico, sterile, non serve a niente, cambia nessuno. Con che cosa? Che tende poi alla separazione perché tu sei santo e non ti sporchi degli altri, ok? Con la logica del Vangelo che tende invece all'incontro. Papa dice, vai incontro alla gente. Vuoi stare vicino a Dio? devi stare vicino alla gente. Vuoi che la gente torni in chiesa? Porta il Vangelo nelle strade. Basta, in poche parole. Se facciamo questo, la nostra diventa una proposta di nuova evangelizzazione. Se manifestiamo una chiesa gioiosa, dunque coraggiosa e non ansiosa, che si preoccupa di annunciare il risorto, testimoniando con la vita e con le parole, che va incontro e propone che cosa? Un'amicizia, l'amicizia di Gesù, ma che si rende amica dell'uomo. Non una chiesa istituzionale, ok, che detta divieti enorme, ma una chiesa che apre le sue porte, certo con discernimento, perché le persone si incontrino con Gesù e scoprono Gesù amico. Noi diamo un'immagine di chiesa nuova, cioè profetica. La gente dice: mamma mia, questa è una rivoluzione, come diceva il nostro amico prima. E la cosa più interessante, più bella, è che possiamo farla noi, puoi farla tu. Possiamo farla, non possiamo, dobbiamo farla nelle nostre parrocchie, comunità, associazioni, gruppo di preghiera, non so dove ci troviamo. Questa, una chiesa che gioisce, che testimona, che testimonia e che va incontro all'uomo. E grazie del vostro ascolto. Era la voce di Manuel Rossi, dottorando in teologia pastorale, formatore dell'evangelizzazione, intervenuto nel secondo incontro del ciclo di quattro dedicati all'approfondimento sull'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Rossi è intervenuto sulla domanda: una nuova visione di Chiesa, la dimensione profetica in Evangelii Gaudium. Ricordiamo che questo incontro è disponibile anche in versione video sul canale YouTube di Blu Radio Veneto. Proseguiremo e completeremo il percorso con il terzo e il quarto incontro lunedì 13 e martedì 14, sempre alle ore 21 sulle frequenze di Blu Radio Veneto. È di Daici Regia, Mirko Cavallini in studio e redazione. Grazie per l'attenzione. Buona serata.